Sì, pronto, volevo. Sì, no, vorrei. Sì, no, volevo sapere se era. Sì. Sì, però se fosse. Certo, certo. Sì, però io avrei. Ho capito, sì. Va bene, però io. Pronto. Pronto.